Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Enrico Mentana ha lasciato Twitter per eccesso di aggressività, diciamo. Che viene rivolta... No, ma non nei miei confronti, perché questo è stato detto per le accuse, come se uno mi avesse detto, scegliete a piacere l'ingiuria, e io mi fossi offeso, ho detto basta, non gioco più, mi porto via il pallone. Non è questo. Non capisco perché nella comunità virtuale di Twitter, che si pretende rappresentazione dell'agorà vera, della comunità vera del nostro paese, invece si possa far questo. E c'è la gara chi è più ribaldo, chi è più scorrile, chi è più antifemminista. Ecco, io non voglio dire che il femminicidio nasce da Twitter, ci mancherebbe altro, sono fesserie. Però la maleducazione è anche la cosa più sterile, l'incapacità di spiegare il confronto e di piegarsi alla bellissima logica del confronto nascono anche da lì. Sono totalmente d'accordo con te. Grazie, grazie molto. Questa mattina mi va di tornare a parlare della rete. Un po' perché mi sento abbastanza lambito da questo che dice Mentana, perché mi sono permesso qualche giorno fa di dare una mia riflessione su questa sorta di abbandono clamoroso di personaggi noti, di personaggi baciati giustamente a pieno diritto dalla fortuna mediatica, che a un certo punto si accorgono che su Twitter, dove hanno per vario tempo ostentato la loro presenza, il loro carisma, la loro capacità di esprimere pareri e di dare giudizi, ci sono un sacco di persone che non li riconoscono altra autorità che quella di avere pari diritto quanto loro di esprimere pareri, e l'umanità non è fatta da raffinati filosofi, da fini dicitori, da persone che articolano con grande saggezza e hanno la capacità di ascoltare, di mettersi a confronto, di rispettare il parere altrui. L'umanità è fatta di gente prevalentemente rozza, prevalentemente innamorata in maniera tenace dei propri convincimenti, con la tendenza di imporli sugli altri. La rete, che è una fantastica maniera di rivelare tutti gli aspetti dell'umanità, dai più sublimi ai più reietti, mette le persone abituate comunque a avere una catena di protezione tra loro e i ricettori del loro messaggio di mediazione, sono rimasti un po' male. Mentana di questo, ci sono tantissimi altri esempi di persone che, dopo aver lungamente mostrato gran divertimento, grande assiduità stando al gioco, hanno deciso: ci usciamo da Twitter, non ne possiamo più, c'è una grande violenza, c'è una grande reattività. Sì, è vero, se Mentana osserva che ci sono molti comportamenti di tipo oltranzista, razzista, sessista, verissimo. Altrettanto io diversamente sono attaccato dai politicamente correttissimi, che mi accusano ogni piede spinto di non avere sensibilità, di non capire e di essere una persona spietatamente legata a sistemi arcaici di lettura della realtà. Ognuno ha per sé. Ma la rete è questo o è anche qualcosa di diverso di questo? Oggi vorrei parlarne con alcuni amici, prendendo proprio dallo spunto che in Italia, stranamente, paese iperdotato di protesi elettroniche individuali, abbiamo più telefonini che esseri umani, abbiamo tablet per tutti, abbiamo smartphone a disposizione di tutti, molte volte il segno del raggiungimento di una cultura digitale lo abbiamo quando personaggi che in realtà appartengono al vecchio mondo dei media tradizionali, della televisione, dei giornali di carta stampata, anche della radio, dicono la loro. Abbiamo con noi Vincenzo Cosenza. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Vincenzo è responsabile di blogmeter.it, che è un servizio di ascolto dei social media, che valuta, abbiamo già detto molte volte, mensilmente la presenza di aziende, brand, personaggi pubblici e politici nei social media. E anche l'avvocato Giuseppe Vaciago. Giuseppe, buongiorno. Che è un avvocato specializzato nel diritto penale e nelle nuove tecnologie. A seconda dei vostri diversi ambiti di competenza, della vostra indubbia conoscenza dei meccanismi della rete, vi pongo alcune domande. Innanzitutto, Vincenzo Cosenza, tu trovi che in realtà anche il personaggio noto che ha fatto il salto del fosso, che è entrato anche lui nel lato oscuro dell'umanità, che esce fuori da tutte le garanzie possibili, i sistemi protetti, la referenzialità che ha a gestire un importante diffusore di pensiero come un telegiornale, come un giornale, come anche io modestamente una trasmissione radiofonica, possa dire a un certo punto non sto più al gioco, per questo è, nonostante che dica no Mentana, a un certo punto dice no, non ci sto più, non mi va. Esiste un mondo talmente grezzo, talmente crudele, talmente spietato e non all'altezza del gioco che io a questo gioco non ci sto più. È realmente così secondo te? Ma secondo me è una posizione perfettamente legittima. Il problema è che viene fuori da una scarsa considerazione di quelle che sono le regole del gioco e le grammatiche dello strumento che si sta utilizzando. Cioè chi entra in Facebook, in Twitter, dovrebbe, come si diceva una volta agli utenti che entravano nelle Usenet, leggere il manuale, read the fucking manual, si diceva, con un acronimo RTFM. Cioè bisognerebbe capire che ci sono, che il mezzo ha delle regole e che non si può pretendere che invece si plasmi a immagine e somiglianza di chi entra. È come quelle signore ti fanno mettere le pattine quando entri a casa loro. Io faccio togliere le scarpe, ognuno ha le sue manie, certo. Però uno può farlo a casa propria, se gli altri, certo, vogliono andarsene con gli scarponi chiodati, o ti adegui anche te a mettere gli scarponi chiodati all'occorrenza, o se no non puoi entrare in quelle case. Assolutamente, nello specifico Enrico Mentana avrebbe potuto, anziché andar via, comprendere che Twitter ha in sé degli strumenti che permettono di eliminare in qualche modo il rumore o magari di oscurare quei soggetti che magari danno fastidio o che offendono. Attraverso... Esiste anche una gestione del troll, se uno proprio vuole entrare, esatto, uno può anche rispondere, anche. È sempre bene non alimentarlo, ma se uno vuole esiste una maniera per far sì che si elimini con le sue stesse armi, esatto. Ma se uno vuole perderci tempo, ma non è nemmeno obbligo stare su Twitter a esprimere pareri, non è nemmeno obbligo ascoltare i pareri degli altri, non è nemmeno obbligo farsi condizionare. Però tutto questo, se lo portiamo poi su un piano del diritto, su un piano giuridico, può anche dare dei risvolti interessanti, forse vale la pena di sapere. Giuseppe Vaciago, in realtà, se qualcuno in un social media in qualche maniera compie un reato nei nostri confronti di diffamazione, qualche maniera lede la nostra personalità, esistono comunque degli strumenti giuridici per cui uno possa comunque rivalersi contro lui, ammesso che questo abbia voglia di farlo, con i tempi che sono delle cause civili, mi sembra anche poco proficuo alla fine. Innanzitutto ciao Gianluca, e mi fa molto piacere sapere che quindi per entrare a casa tua bisogna togliersi le scarpe, penso che sia l'informazione più utile. A parte questo, no, e le battute, direi assolutamente sì, ci sono degli strumenti, e proprio mi riallaccio a quanto ha detto Mentana, perché quando lui fa un'affermazione dove dice che appunto c'è questo anonimato, è un anonimato che è molto più debole di molti altri anonimati, proprio perché c'è un indirizzo IP e ci sono delle forze specializzate di polizia che forse, mi permetto di dire, alle volte perdono molto più tempo a sviluppare procedimenti di diffamazione fatti nascere da personaggio famoso o anche da soggetti non noti, che magari ha indagini che riguardano crimini informatici molto più seri, criminalità organizzata e altre cose che avvengono su internet e che forse sono molto più importanti. Ecco, non dimentichiamo Giuseppe, molte volte quando leggiamo operazione brillante, sgominata o setta di pedofili o banda di falsari o criminali attraverso internet, non è che la rete fomenti l'uso, diciamo l'abuso, o fomenti la capacità di compiere crimini. La rete finalmente rende più facile individuare molte volte alcune associazioni che affidano alla rete i loro sistemi di collegamento, o mi sbaglio? No, non ti sbagli, bisogna dire che però è anche vero che la rete semplifica, purtroppo, e questo bisogna dirlo, ma non c'entra molto col discorso della diffamazione e della libertà di espressione del pensiero, la commissione di illeciti, perché effettivamente la delocalizzazione permette anche di poterli fare da casa propria senza i rischi di commettere un reato, come per esempio una rapina, che presuppone altri rischi anche di una certa importanza. Quindi effettivamente c'è un incremento di questa tipologia di reati, c'è un decremento di reati invece di altro tipo, ma sono d'accordo con te, in realtà la rete permette di svolgere investigazioni assolutamente efficaci e ci sono procure specializzate in Italia che fanno delle ottime interventi. Quindi ecco, questa è una disinformazione che ha dato Mentana, cioè credo che invece ci sia la possibilità di identificare i soggetti, poi un conto è la possibilità, un conto è la volontà. Ecco, molte volte sono gli stessi troll, gli stessi fastidiosi per professione, sì, perché ci sono molte persone, diciamo la verità, che ricercano la loro personale affermazione o cercano di compensare alcune loro frustrazioni o vogliono sentirsi comunque lecitamente, un lecito desiderio, non è detto sia giusto, ma è lecito desiderarlo, all'altezza delle persone che considerano privilegiate perché hanno capacità di esprimere i loro pareri. Ecco, non hanno perfetta consapevolezza di quelli che sono i rischi che si corrono. Loro pensano che scrivere una cosa su Twitter o su Facebook equivalga andare di notte con una bomboletta a spray e scriverla sul muro, ma non ne sanno le conseguenze. Guido Scorza, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Guido Scorza è avvocato, docente presso il Master di Diritto e Nuove Tecnologie della Facoltà di Giurisprudenza all'Università di Bologna. È d'accordo, avvocato, che gran parte delle persone che con grande entusiasmo, a volte anche con grande veemenza e grande spocchia, esprimono il loro parere o si affacciano nei social media, non hanno la totale consapevolezza di quello che rischiano nel compiere appunto reati? Ma non c'è nessun dubbio, direi che la semplicità o l'apparente semplicità con la quale è possibile condividere un contenuto nello spazio pubblico telematico attraverso le piattaforme di social network molto spesso dia luogo ad una leggerezza nella condotta. Siccome è semplice, siccome è facile, non sarà grave. Ecco, questo penso che sia un processo mentale piuttosto diffuso. Possibile che rischio la galera soltanto per due clic di troppo. Ecco, qualcuno questo deve esserselo detto e se lo dice probabilmente con una certa frequenza nel postare 140 caratteri. Oddio, chi se lo chiede in realtà è chi ultimamente ha, diciamo, messo le mani su immagini o oggetti diffamatori in rete che riguardano alte cariche della Repubblica. Altri non mi risulta che abbiano avuto interventi così diretti e così immediati nella loro sfera abitativa e personale. Quindi evidentemente poi si dice, ma in realtà sono poche le persone che ricorrono o che realmente poi trasformano lo strumento di illecita rivalsa giuridica nei confronti di chi li infastidisce in rete. Giuseppe Vaciago. Mi trovi proprio d'accordo, Gianluca, cioè io credo che è anche un fatto generazionale. Guardo con un certo tipo di stupore, ma anche comprendendo le osservazioni che sono state fatte da chi utilizza un media tradizionale. Non so, mi ricordo a Sanremo l'episodio di Crozza, dove non ha potuto svolgere una sua performance perché appunto è stato interrotto da gente del pubblico. Cito questo esempio per dire che, insomma, è chiaro che noi ci troviamo di fronte a una era del tutto spesato, essendo abituato a lavorare in uno studio chiuso al pubblico, si è trovato improvvisamente al contatto con il senso epidermico e carnale di una folla che lo contestava. Non è piacevole, lo so, non è piacevole, però è sicuramente un nuovo modo di pensare. Sono d'accordo che ci vuole un'educazione, è un'educazione che parta anche dalle scuole. Io credo che ci sia bisogno di quella che gli americani chiamano awareness, cioè conoscenza della rete, e quello condivido quando Mentana dice è un problema di riformare il sistema. Ma non per inciso, scusa Giuseppe, io l'ho preso come pretesto iniziale, non voglio puntare perché sennò avrei dovuto chiamarlo al telefono, invece non credo che abbia nulla da aggiungere. È stato interessante perché lui ha sollevato un problema, comunque sia ha sollevato un dibattito, infatti, è giusto che si parli. Lo vedo in questi termini. È chiaro che credo che appunto le regole non siano tanto quelle legali, come invece sembra che adesso emergano appunto anche a livello parlamentare e altro, ma siano appunto delle regole etiche, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di concepire la rete, che effettivamente non è sempre idoneo. In questo senso posso essere d'accordo, anche se, come dici giustamente tu, bisogna dall'altro lato, anche noi tutti si devono abituare. Anche il tema della privacy è un tema molto importante, credo, sotto questo profilo, perché abbiamo dei problemi a vedere come magari ci sono delle regole che invece non vengono percepite come tali dai nativi digitali, cioè da quelli che sono nati col computer. E quindi anche questo è un fenomeno, ma credo di banale cambio generazionale e di un utilizzo di uno strumento che ormai è diventato, che possono utilizzare tutti, e quindi ha cambiato un po' anche la società. Sì, questo è un tema che voglio toccare perché è importante, se ne parla tanto vorrei capire anche il punto della privacy. Però vorrei fare un'altra domanda a Vincenzo Cosenza, proprio sull'effetto dei VIP che hanno la possibilità di far rimbalzare la loro presenza nei new media, nel vecchio sistema però poderoso, reale, concretamente potente dei media tradizionali, e quindi si parla ancora di loro. Se per assurdo un personaggio noto, non voglio fermarmi sempre all'esempio di Mentana, ma ce ne sono stati tanti, si straccia le vesti, dice basta, non ci sto più, non gioco più, non voglio più starci, lo dice perché lui può manovrarli, può starci dentro, sono amici suoi, sono contatti che ha attraverso le agenzie di stampa, viene invitato nei programmi televisivi, ne parlano le prime pagine dei giornali, viene ospitato in luoghi eccelsi. Ecco, poi in rete cosa avviene? Ha molta... cala la popolarità, ma comunque aumenta la presenza e l'occorrenza della sua presenza, o in realtà viene una sorta di ostracismo della rete, viene detto non degno di frequentare questi ambienti? Beh, in realtà quello che noi abbiamo rilevato, dati alla mano, sono che in realtà di questa questione di Mentana nei primi due giorni ci sono stati circa 7.000 tweet provenienti da 4.300 persone, quindi io direi un fenomeno, come dire, molto limitato. La discussione non in rete non è stata monopolizzata da questo evento, e tutto quello che è avvenuto dopo, grazie al rimbalzo dei media, che di conseguenza porta un riflettore sulla rete e sugli aspetti in qualche modo negativi, e questo chiaramente ha come effetto tra coloro che invece la rete la vivono da tanto tempo, quello di un po' come dire, far venir meno la popolarità di questi diciamo VIP. Tu hai detto una cosa molto importante, Vincenzo, alla fine sono persone che già hanno una loro popolarità legittimamente conquistata, che vogliono in qualche maniera colonizzare un'altra area dell'esistenza, cercando di usare però gli stessi strumenti che hanno permesso loro di conquistarsi un posto di lecito, ripeto, e giusto privilegio. Esatto, e questo in rete non funziona, bisogna appunto adattarsi in qualche modo alle regole del gioco della rete, che sono luoghi orizzontali e non sono appunto mass media in cui appunto il Mentana di turno può legittimamente dire la propria e sa di far arrivare quel messaggio in maniera molto diretta e neanche modificata al resto. In rete il messaggio viene a modificarsi grazie alla discussione che questo scatena, discussione che può anche non piacere, ma appunto, come dicevo prima, ci sono gli strumenti per bloccare le persone fastidiose o offensive e continuare a rimanere e a dire la propria su questi mezzi. Ecco, te che hai un osservatorio molto capillare, mi fai un esempio di un uomo importante, o perlomeno noto, della politica, dello spettacolo, del giornalismo, che in realtà ha un uso corretto, si scontra ma esce giustamente vincitore anche degli scontri con i suoi attaccanti o con le persone che in realtà sì, gli riconoscono il diritto di esistenza, ma vogliono trattarlo, essere trattati a loro pari. Ma ce ne sono tanti in realtà, c'è Severgnini per esempio, che è una persona che appunto dialoga anche con tranquillamente con le persone che gli fanno degli appunti, chiaramente non può farlo con tutti, però ci sono tantissimi giornalisti che si mettono in discussione comunque. Che si mettono in discussione, che qualora appunto c'è una risposta legittima e razionale, degna di nota, provano a interloquire, insomma. Melog, la realtà condivisa. Cara Vestiti, usciamo, suona così la resa di Fiorello, che si è cancellato da Twitter senza neanche un saluto. Twittava anche 30 volte al giorno, più di una volta all'ora. Twittatore compulsivo, drogato di cinguettii. Ed ora, paparazzata su oggi, si gode invece la primavera su una fiammante 500 vintage, colore rosso, tettuccio aperto. È primavera, cinguettano gli uccellini. Ecco, questo è secondo me il sistema arcaico, il lato all'italiana di gestire l'innovazione, il cambio radicale nelle relazioni e nella percezione di sé, della propria privatezza attraverso i social media. Esiste però un altro esempio, un'altra maniera per suscitare il problema di cui vogliamo parlare con i nostri ospiti. Abbiamo al telefono da Brooklyn in diretta Federico Zanier. Buongiorno ingegnere. Buongiorno. Lei ha fatto un atto totalmente provocatorio, lontano anni luce dagli esempi che stiamo toccando di VIP, di noti personaggi che dicono ce ne andiamo perché non ci vogliamo inzaccherare con la rete. Lei ha violato di proposito la sua privacy, vuole vendere i suoi dati personali. Racconti la sua storia. Sono in un master qui a New York, giusto per provocazione, per la mia tesi ho deciso di registrare i miei dati personali mentre navigavo su internet. Poi ho deciso di metterli in vendita su Kickstarter a $2 per giorno. E come si chiama il suo progetto, diciamo, la sua iniziativa, un nome? Un pezzo di me. E in cosa consiste questo? Lei cosa fa giorno per giorno? Cosa mette in vendita? La posizione del mouse, il testo della pagina che stavo visitando, una foto della mia faccia mentre osservavo lo schermo. Cioè, cose che molte volte noi regaliamo gratuitamente nei social media, quando mettiamo le nostre foto mentre ci laviamo i denti, mentre mangiamo, mentre siamo al ristorante, e fotografiamo i piedi in spiaggia che guardiamo il mare. Lei invece ha voluto valorizzare. Quanto ha fatto in una settimana? Quanto ha messo insieme? $1.300. Cioè, questo ci fa pensare che in realtà quello che noi regaliamo nei social media, la foto mi sono svegliato questa mattina e ho visto un fiore dal mio balcone, in realtà ha un valore commerciale. Ma cosa se ne fanno le persone delle foto della sua faccia o del suo mouse? Penso che sia soltanto un supportare la mia provocazione. In sé le mie foto, i miei dati non hanno nessun valore. È soltanto un supporto per il progetto. L'ultima domanda, poi la lascio in pace perché non la voglio disturbare oltre. Chi è che ha comperato la sua privacy? È iniziato tutto con la comunità in cui sono, quindi tutti i miei amici, gli studenti del master, e poi pian piano, di bocca in bocca, il progetto si è un po' diffuso e poi persone strane che non conoscono hanno iniziato a comprare i dati. La ringrazio, ingegnere Federico Zagnier, che abbiamo chiamato a New York. Giuseppe Vaciago, avvocato specializzato nel diritto penale e nuove tecnologie. Un tuo commento innanzitutto: questo è un esperimento, è chiaro, una provocazione artistica, però dietro c'è un bel testo da sviscerare. Noi non ci rendiamo conto quanto valiamo in ogni nostro palpito e nel nostro affacciarsi in rete. Sì, assolutamente, è una bellissima provocazione e devo dire mi ha incuriosito tantissimo, anche io avrei mille domande. Rispondendo alla tua domanda, è importante quello che lui osserva, cioè di per sé il singolo dato conta sufficientemente poco e questa è una bellissima dimostrazione, perché quello che lui dice, anche se poi noi vediamo che ha ottenuto $1.300, ma credo che sia più una risposta alla sua provocazione, però è una dimostrazione e significa quanto invece chi aggrega i dati, i cosiddetti big data, quanto possono valere. E quindi il fatto che, come tu dici giustamente, chiunque mette una foto online, quell'insieme di foto e quell'insieme di informazioni che oggi vengono liberamente fornite in rete ci permettono poi di usufruire gratuitamente di servizi che noi crediamo gratuiti, dico una banalità, però in realtà è utile ricordarlo, che invece si fondano proprio sulle informazioni che noi ogni giorno immettiamo. Altra osservazione: se una persona oggi ritiene assolutamente normale fotografarsi ogni 30 minuti e diffondere questo tipo di informazione, significa che forse dobbiamo pensare che c'è un gap tra quello che poi è la privacy oggi e quello che sarà la privacy del futuro. Da un lato dico sicuramente i garanti stanno facendo un ottimo lavoro per sensibilizzare il fatto dei danni che potrebbero succedere fra 10 anni rispetto all'informazione che mettiamo ora, e questo è un altro tema molto noto. Dall'altro lato però bisogna avere prudenza nel non andare esattamente contro quelli che sono poi gli usi e le consuetudini di una società che sta cambiando. Questo va assolutamente tenuto in considerazione. Ecco, vorrei sentire Guido Scorza, che ricordo che è docente al Master di Diritto e Nuove Tecnologie a Giurisprudenza di Bologna. Quello che diceva Ciago mi fa pensare che abbiamo preso nel giusto questa mattina. Stiamo analizzando un campione transeunte, un'umanità di passaggio, anzi umanità residuale, che si affaccia nei social media, nel mondo della rete, con il passo però ancora legato al vecchio mondo. Sta evolvendosi il nativo digitale e si evolveranno anche le regole. Ma quello che è la provocazione dell'ingegnere torinese a New York, ma non somiglia un po' a riassumere la frase che si diceva: ogni volta che accendo la televisione in realtà compio un lavoro, perché sono un campione per la pubblicità, un possibile acquirente per la pubblicità messa nella televisione, e quindi sto lavorando in qualche maniera. Ogni volta che io metto una mia foto in rete, una volta che metto un pensiero in rete, una volta che scrivo il mio status, in realtà sto lavorando, perché qualcuno su quello potenzialmente potrebbe fare dei soldi. Assolutamente sì, e questa è secondo me una verità che dovrebbe far riflettere quando ormai in maniera insistente gli editori, in particolare quelli di giornali, rivendicano il diritto a vedersi riconoscere un corrispettivo per i contenuti utilizzati da terzi. Ecco, nella realtà il tema è, come sta emergendo, molto più ampio, perché ciascuno di noi pro quota contribuisce su base quotidiana alla produzione di quei contenuti che poi hanno un valore economico e che vengono inseriti in dinamiche che sono assolutamente commerciali e imprenditoriali. Quindi, come dire, c'è da chiedersi, ecco, a proposito di regole sul web, se in prospettiva il singolo utente non debba in qualche modo, non abbia in qualche modo un diritto a vedersi riconoscere un corrispettivo esattamente allo stesso titolo per il quale lo richiedono gli editori per il servizio. Sì, la maggior parte degli utenti, soprattutto in attività digitali, si divertono, usano le applicazioni, si interconnettono, socializzano, quindi non si pongono il problema quanto questo crei business. Provo a porre la domanda a Giuseppe Vaciago, perché le ricadute di quello che accade nel mondo della rete hanno delle volte, visto che il mondo antico è così diversamente articolato, delle singolari ricadute. Ti pongo il quesito del problema di Massimiliano Tonelli, condannato a 9 mesi di carcere recentemente, aveva fatto una pagina su Facebook, Cartellopoli, che denunciava tutte le affissioni abusive nel comune di Roma. Il tribunale però l'ha denunciato, l'ha condannato per istigazione a delinquere, perché alla base della sentenza in realtà tutti gli atti materiali e concreti di vandalismo, di reazione che si potrebbero creare nei confronti dei cartelloni o degli estensori di questa pubblicità ricadono come responsabilità chi aveva fatto quello che pensava un servizio: metto le foto dei cartelloni abusivi per dire che non vanno messi. Sì, questa cosa fa assolutamente sorprendere, perché è chiaro che letta così sembra che stiamo ricadendo in una giurisprudenza che speravamo aver morto e sepolto, che fosse morta e sepolta. Però bisogna cercare di fare dei distinguo. Io adesso parlo in linea generale perché non sappiamo il contenuto della sentenza, ma soltanto la notizia. Allora, cerco sì, ma di solo per capire che ancora ci sono due, come fossero due treni che devono allinearsi, è il diritto in rete e il diritto nel mondo concreto. Sì, però fammi aggiungere soltanto il fatto che se, e questo è importante capirlo, che tutti gli utenti della rete lo capiscano, se il soggetto, cioè se Massimiliano Tonelli ha ricevuto un avviso di rimozione di quel commento che poteva in qualche modo essere indirizzato a commettere dei reati, e lui non ha rimosso il commento, e questa segnalazione era una segnalazione qualificata, per esempio è una segnalazione che proviene dall'autorità giudiziaria, allora io condivido la sentenza, mi spiace doverlo dire, perché no, ma bisogna dire le cose, cioè. Questo è importante, il principio giuridico della direttiva sul commercio elettronico, che poi si estende su tutto, è: se io ti dico togli quel contenuto, non te lo dico perché sono interessato, ma perché sono l'autorità giudiziaria, perché sono un'autorità competente, tu lo devi fare, se non lo fai rispondi del reato. Diverso è se senza avviso hanno ipotizzato che ci possa essere un'istigazione a delinquere per questo ragazzo, allora ciò è assolutamente scorretto dal punto di vista giuridico e dimostra quello che dici tu, cioè due treni che vanno in direzioni completamente opposte. Ecco, mi piace questa precisazione, Giuseppe, e ci fermiamo un attimo per le informazioni del traffico, perché io penso che questi problemi vadano affrontati non con l'afflato emotivo, con l'entusiasmo per il nuovo, con il senso di persecuzione di molti che stanno in rete e vedono sempre qualcuno che vuole limitare quelli che sono i loro diritti, la loro libera espansione di pensiero, ma bisogna affinare, mi rendo conto, lo strumento tecnico giuridico. In questa direzione spero che ci stiamo muovendo. Melog, la realtà condivisa. Avvocato Rosario Imperiali, buongiorno. Buongiorno a voi. L'avvocato Imperiali è presidente del Comitato Scientifico dell'Istituto Italiano Privacy. sta preparando, sta collaborando alla preparazione di un incontro, il terzo Privacy Day Forum, che il 23 maggio 2013 si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Pisa col patrocinio del CNR, dove un migliaio, mi pare, di addetti ai lavori sulla privacy cominceranno a interrogarsi proprio sui temi di cui stiamo discutendo questa mattina. Se entriamo finalmente nella civiltà digitale, nella cultura digitale, bisogna affinare gli strumenti, perché cultura digitale non significa anarchia totale, dissociazione totale da ogni regola. Sì, certo. Io credo, partendo dalle sue sollecitazioni, che si tratti prevalentemente di un problema semantico-culturale ancor prima che regolatorio. Quindi credo che incontri di questo tipo siano molto utili per cercare di creare una piattaforma culturale comune, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per il pubblico degli utenti. È possibile cominciare ad avere dei punti di riferimento, dei parametri? Esistono, uso dei termini molto semplificativi per la mia ignoranza, per il pubblico che ci ascolta soprattutto, esistono dei protocolli già accettati, già testati, già condivisi, applicabili anche a quello che è il comune quotidiano del navigatore italiano, che non sia così spaventato del fatto che in rete sembra che a dettare, che è una cosa molto nostra e molto contemporanea, a dettare le regole siano quelli che urlano più forte, quelli che hanno il possesso anche degli strumenti di diffusione del pensiero tradizionali, quindi radio, televisione, giornali e via dicendo. Sì, certamente non siamo nel Far West, internet non è un deserto dove si può agire a proprio piacimento, né vi sono oramai disposizioni di carattere internazionale sulla materia. C'è un grande dibattito in corso oramai da 2 anni a livello comunitario, si è in attesa di un nuovo regolamento europeo che sostituirà la direttiva sulla privacy. È un regolamento su cui la Commissione sta investendo molto e che potrebbe costituire uno standard internazionale, ed è questo il motivo per cui le regioni del mondo, diciamo l'America, l'Asia Pacifico e parte dell'America Latina, guardano allo sviluppo dell'iter parlamentare di questo regolamento e anche con un approccio lobbistico particolarmente significativo per stabilire come poi dovranno muoversi loro nei propri contesti. Ecco, ma cosa la percezione del comune utente come cambierà? A cosa dovremmo abituarci, dovranno abituarsi i futuri nativi digitali già cresciuti, che ormai cominceranno ad avere una 30ina d'anni? Ecco, io credo che innanzitutto ci sia da abituarsi, come dicevo all'inizio, a un discorso di significato delle parole, e le parole hanno un senso molto importante, senza scomodare il logos delle grandi religioni monoteiste. Noi abbiamo avuto bisogno a metà degli anni 90 di sdoganare un principio complesso e che fosse chiaramente e immediatamente percepibile sia in America che in Russia piuttosto che in Europa, e abbiamo utilizzato la parola privacy. Questa parola ha avuto un grande successo di marketing normativo, nel senso che salvo che in alcuni contesti come la Cina e il Giappone, dove non esiste il termine, più o meno quando si pronunciava questo termine si capiva di che cosa si stava parlando. Ora però il termine ha anche un suo lato oscuro, nel senso che porta avanti un significato duale, no? La privacy è o riservo oppure esposizione mediatica. E mentre noi oggi non possiamo vivere nella società complessa con bianchi e neri, abbiamo bisogno di una tavolozza di colori. È molto interessante quello che dice lei, Imperiali. Vaciago, visto che tu sei avvocato, ti occupi di diritto, difendi anche persone che in queste maglie poi si trovano invischiati. Quindi sta cambiando, dovrà cambiare in maniera normativa cambierà il concetto che abbiamo di privatezza. Quali sono i punti caldi secondo te da toccare che ancora sembrano più difficilmente risolvibili? È una domanda piuttosto ampia, però diciamo che credo che un punto su cui noi dobbiamo riflettere, se colleghiamo la privacy alla rete, perché poi il vero problema è ci sono varie privacy, no? Nel senso, vari diritti di riservatezza, e per esempio un tema molto molto caldo è quello del diritto all'oblio, dove è intervenuto il regolamento appunto che citava prima il collega Imperiali, e sinceramente bisogna fare delle riflessioni fino a che punto ci può essere un diritto alla possibilità di cancellare, diciamo, dei dati che riguardano la propria persona e magari che sono stati anche pubblicati da terze persone, perché poi il diritto all'oblio si confonde appunto su dati che pubblico io o dati che invece vengono pubblicati da terzi, e quindi questo è un problema molto serio, e invece fino a che punto la memoria storica di internet debba rimanere. Se lo chiedessimo a Google sicuramente avremmo una risposta. Ecco, non è un patrimonio dell'umanità la memoria digitale di questi ultimi anni, da quando la stiamo accumulando? Lo sono le biblioteche, domanda. Gli archivi storici, la civiltà contadina. Cosa ci racconta meglio noi nella nostra contemporaneità che gli archivi digitali? Perché dobbiamo distruggerli? Gianluca, io credo che tu stai toccando un tema che un giurista difficilmente può affrontare con profondità. Adesso non voglio peccare di eccessiva umiltà, ma credo che davvero sia difficile, perché il contraltare di questo ragionamento è il fatto che abbiamo degli archivi che potrebbero veramente danneggiare soggetti che insomma, per cui la loro privacy viene volata e magari i fatti successivi possono modificare, ecco, la storia. E c'è un piccolo dettaglio che io, per semplificare, per non dilungarmi troppo, metterei: prima non c'era un motore di ricerca che, digitando un nome, poteva indicizzare tutte quelle informazioni. Il fatto che abbiamo uno strumento tecnologico che ci permette di indicizzare, poi adesso motori di ricerca, aggregatori, ce ne sono mille, e saranno sempre più perfetti, saranno sempre più perfetti, deve modificare in qualche modo il concetto di memoria storica, perché non possiamo fare l'errore, secondo me, di paragonare gli archivi cartacei con gli archivi digitali indicizzabili nelle modalità che conosciamo adesso. Mi sembra molto chiaro, Giuseppe. Noi siamo arrivati in conclusione, ma come sempre poi riprendiamo il tema. Il tema è proprio riempie, interessa un arco semantico proprio. Dobbiamo proprio ridefinire alcune nostre concezioni che avevamo ben radicate rispetto a tutti gli argomenti, le convinzioni, i temi assodati che finora davamo per inalienabili, intoccabili, non sovrascrivibili. Invece la nostra civiltà va sovrascritta, se vogliamo comunque evolverci almeno in questa direzione. Grazie a tutti, a lunedì.